la parola del Signore mi fu rivolta in questi termini: non prenderti una moglie, non aver figli né figlie in questo luogo. Così infatti dice il Signore contro i figli e contro le figlie generati in questo luogo, e contro le loro madri che li hanno partoriti, e contro i loro padri che li hanno generati in questo paese. Di morti orrende moriranno. Non verranno lamentati né sepolti. Saranno come letame sulla superficie del suolo. Saranno sterminati con la spada e con la fame, ed i loro cadaveri saranno pasto per i volatili del cielo e per le bestie del paese. Sì, così dice il Signore: non entrare nella casa del lutto e non partecipare al pianto, né compiangerli, perché io ho ritirato la mia amicizia da questo popolo, oracolo del Signore, la pietà e la misericordia. Moriranno grandi e piccoli in questo paese. Non saranno sepolti, né vi sarà pianto per essi, e non si farà incisione né rasatura per essi. Non si spezzerà pane per chi è in lutto, per consolarlo della morte. Neppure verseranno con loro la coppa delle consolazioni per il proprio padre e per la propria madre. Non entrare a sederti con loro nella casa del banchetto per mangiare e per bere. Così, infatti, dice il Signore degli eserciti, Dio d'Israele: eccomi a far cessare da questo luogo, sotto i vostri occhi e nei vostri giorni, la voce di giubilo e la voce della letizia, la voce dello sposo e la voce della sposa. Quando tu avrai annunciato a questo popolo tutte queste cose, allora ti diranno: perché il Signore ha pronunciato contro di noi tutte queste grandi malvagità? E qual è la nostra iniquità? E quali i nostri peccati che abbiamo commesso contro il Signore nostro Dio? Allora risponderai loro: perché i vostri padri hanno abbandonato me, oracolo del Signore, e sono andati dietro ad altri dei, e li hanno serviti, e si sono prostrati dinanzi a loro, mentre hanno abbandonato me e non hanno custodito la mia legge. Voi però avete agito peggio dei vostri padri, ed eccovi che seguite ciascuno la durezza del vostro cuore malvagio, senza ascoltarmi. Perciò vi farò scacciare da questo paese, verso un paese che non conoscete, né voi né i vostri padri, ed ivi servirete altri dei giorno e notte, perché io non vi farò grazia. Pertanto, ecco, vengono giorni, oracolo del Signore, e non si dirà più. Per la vita del Signore che fece ascendere i figli di Israele dal paese d'Egitto, bensì vivente il Signore che ha fatto uscire i figli di Israele dal paese del nord e da tutti i paesi dove li aveva dispersi, e li ha fatti ritornare sulla loro terra che aveva dato ai loro padri. Eccomi, io invierò molti pescatori, oracolo del Signore, e li pescheranno. E dopo ciò invierò molti cacciatori, e li cacceranno da ogni monte e ogni colle e dalle fessure delle rocce. Sì, i miei occhi sono su tutte le loro vie, non sono nascoste dinanzi a me, né può occultarsi la loro iniquità dinanzi agli occhi miei. Ma prima ricompenserò il doppio la loro iniquità e i loro peccati, perché hanno profanato il mio paese con i cadaveri del loro obbrobrio e con le loro abominazioni hanno riempito la mia eredità. Signore, mia forza e mia fortezza, mio rifugio nel giorno dell'angustia, a te le nazioni verranno dall'estremità della terra e diranno: solo menzogna ereditarono i nostri padri, nullità e senza profitto. Può farsi l'uomo degli dèi, mentre essi non sono dèi? Per questo eccomi. Farò loro conoscere questa volta. Mostrerò loro la mia mano e la mia potenza, e conosceranno che il mio nome è il Signore.